La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. È lunedì, stando ai TG, GR, tutta l'informazione del weekend dovreste essere tutti in vacanza. Invece stamattina la città era identica, sempre piena, sempre problemi col parcheggio. Ma perché non partite? Partite, accendete la radio, mi ascoltate in macchina. La bella estate è tornata anche oggi con un tema commovente, un tema di reminiscenze. Parleremo di nonne. Avrete visto sicuramente quel film che si chiama The Beaver, il film di Jodie Foster con Mel Gibson, in cui Mel Gibson parla soltanto con un castoro di peluche. Bella novità, io lo faccio da 12 anni, ho un orso alto 90 cm in casa e io parlo con questo orso, gli faccio delle domande e mi rispondo anche cambiando la voce. Per me quel film infatti non era alcuna novità. Tutti gli anni, verso il 1° luglio, io prendo l'orso, lo metto in un armadio e fingo che sia partito per le vacanze. Dove va in vacanza? Dalla nonna in Tirolo, perché lui è di origini tirolesi. Poi torna dopo 2 mesi più grasso di prima, almeno io così lo vedo. Sì, lo so, ho bisogno di un buon... neanche psicologo, siamo proprio allo psichiatra qui, ma fa niente, a me piace così. Parliamo infatti di nonni, perché non è solo Barry, il mio orso, che va in vacanza dalla nonna. Anche voi sarete andati in vacanza dalla nonna, dalla zia, e magari non vi è neanche piaciuto, che noia il nonno, la nonna, la zia, i cugini. Beh, pensate, circa un secolo fa c'era un signore in Francia che soffriva di asma e grazie ai 25 anni di vacanze pasquali ed estive che si è fatto dalla zia è diventato uno dei personaggi più famosi della letteratura mondiale. Si chiamava Marcel Proust. E ad un tratto il ricordo m'è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di Madeleine che la domenica mattina a Combré, già che quel giorno non uscivo prima della messa, quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio. E appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di Madeleine, inzuppato nel tiglio che mi dava la zia, pur ignorando sempre e dovendo rimandare a molto più tardi la scoperta della ragione per cui questo ricordo mi rendesse così felice, subito la vecchia casa grigia sulla strada, nella quale era la sua stanza, si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione sul giardino, dietro di essa, costruito per i miei genitori, il lato tronco che solo avevo riveduto fino allora. E con la casa alla città, la piazza dove mi mandavano prima di colazione, le vie dove andavo in escursione dalla mattina alla sera e con tutti i tempi, le passeggiate che si facevano se il tempo era bello. Questo è uno dei brani più famosi della Recherche e vi dico anche perché è più famoso, perché si trova nelle prime pagine del primo libro, quindi se non avete voglia di leggerlo tutto, leggete 10 pagine, mezz'ora di tempo e farete delle bellissime figure in società. Oggi all'800 24 0024 voglio i vostri ricordi su vacanze da nonne e zie con tono prustiano. Una cosa delicata, leggera, anche se so che voi, piuttosto che le Madeleine, mangiavate queste. Sono le siano tagliatelle, malloreddus, pizzocri o altri tipi di pasta regionale, magari voi odiavate quello che la nonna vi preparava, ma la nonna vi voleva bene. Le nonne di solito vogliono più bene delle mamme ai bambini, almeno così si dice. E allora, per parlarne e capire esattamente cosa succede quando un nipotino va in vacanza dalla nonna, abbiamo una esperta in linea. Abbiamo la dottoressa Anna Oliverio Ferraris, psicologa evolutiva. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi, agli ascoltatori. Allora, dottoressa, io ho guardato, ho consultato un po' internet e sono rimasto allibito, perché c'è scritto molte mamme non vogliono mandare più i bambini in vacanza dalle nonne. Come mai? Un tempo era normale farlo. Ma non so se è vero veramente, cioè forse sono un po' scomparsi certi luoghi, cioè era più facile che nelle generazioni passate i nonni avessero una casa in campagna, circondata da prati, quindi diciamo i bambini potevano giocare liberamente e così via. Può darsi che oggi molti nonni non abbiano più questa possibilità, ecco, e quindi per farli giocare, non so, li si porta alla spiaggia. Però in realtà poi un periodo con i nonni o con gli zii è molto importante anche per i genitori, cioè è una pausa anche per loro. ed è importante per i nipoti perché entrano in una dimensione diversa, cioè con i nonni e con gli zii sono protetti, però ecco, sono ritmi diversi da quelli che possono avere durante l'anno, sono ritmi più lenti, sono i ritmi della vacanza. E quindi in linea di massima fa bene sia ai genitori che ai loro figli. Sì, ma qualche mamma dice poi mi tornano indietro viziati, ma sarà vero, no? Ma viziati, sa che i nonni hanno atteggiamenti un po' diversi con i nipoti, poi però anche i bambini si adattano, sanno che quando sono con i nonni possono fare certe cose, quando poi ritornano ai ritmi di vita normali con i genitori certe cose non le possono più fare, anche insomma, perché hanno una certa plasticità, certo, anche i bambini anche, capiscono. Dottoressa, anche perché io trovo che queste signore che dicono no, i bambini mi tornano viziati dalle vacanze, non hanno le stesse remore d'inverno quando devono piazzare i bambini dai nonni, asilo a costo zero praticamente. Quindi quando hanno bisogno del babysitting, infatti. E così via. E poi soprattutto noi abbiamo questa visione ancora che la pubblicità ci manda di nonni con i capelli bianchi che fanno i biscotti in casa, ma i nonni non sono più così, sono cambiati totalmente. Sì, totalmente, sono più giovanili rispetto ai nonni del passato, magari come età cronologica sono più vecchi, però sono molto cambiati perché non so, fanno una vita più dinamica, fanno ginnastica, sono abituati a muoversi in macchina, poi si curano anche di più rispetto ai nonni delle generazioni passate, la vita media si è allungata parecchio, quindi si curano i denti, l'aspetto, i capelli e così via, quindi indubbiamente sono anche più dinamici, sono più dinamici rispetto ai nonni di un tempo. Esatto, e poi c'è anche un'altra differenza, che oggi un bambino può avere tutti e quattro i nonni, mentre in passato era molto difficile che riuscisse ad avere quattro nonni, in genere ne aveva uno o due proprio perché si moriva prima, insomma, certo. La vita media era meno lunga. Era ridotta. È anche una trasformazione anche di immagine, un tempo si andava in vacanza dalla zia che era rimasta zitella, oggi la zia preferisce definirsi single, non più zitella, passando dai nonni agli zii. Sì, certo, bisogna vedere appunto se questa zia non preferisce andare in crociera. Appunto, e lasciare i nipotini a casa. Quindi esatto. Il suo consiglio è lasciate pure i nipotini dai nonni in vacanza, non c'è nessun problema, nessun pericolo. Sì, se i nonni appunto sono affidabili, se anche loro non vogliono andare tutti e quattro in crociera, ma sì, non credo, insomma, possono alternarsi. In genere appunto danno molta sicurezza ai nonni, perché danno protezione ai nipotini, li seguono, gli vogliono bene, insomma, e ci si può mettere d'accordo su alcune cose, in modo che non li vizino troppo. Ecco, certo. Per esempio i genitori hanno una certa idea della dieta, i nonni un'altra, su queste cose ci si può benissimo mettere d'accordo, così sull'ora in cui bisogna andare a letto, insomma, queste routine quotidiane non è difficile. Non è difficile. Va bene, la ringraziamo. Parla tra adulti chiaramente. Certo, ci si capisce. La ringraziamo tanto, dottoressa. Grazie a voi, buone vacanze. Grazie anche a lei e anche a tutti quelli che vanno in vacanza, naturalmente dei nonni. Per esempio, ci sono dei ricordi che mi stanno già arrivando, però questi sono arrivati sulla nostra pagina Facebook, La Bella Estate. Vi invito sempre a frequentarla, a iscrivervi, a lasciare i commenti. C'è Marco che ricorda di una nonna trentina, anche lui, come quella del mio orso, che come cena presentava soltanto prosciutto crudo e caffè latte con i biscotti, ma a lui sembrava la cena migliore. Invece Manuel ricorda che la nonna gli dava pane, burro e zucchero per la spiaggia e dice nonostante non è proprio un pranzo salutista, la nonna è vissuta fino a 90 anni. Anch'io ho dei ricordi sulla cucina di mia nonna e sono ricordi abbastanza radioattivi, perché eccola qui questa musica tipica che vi mettono sempre nei servizi dei TG quando parlano centrali nucleari, io la metto per ricordare la cucina di mia nonna. Pietanze che brillavano nel buio e che ancora non si sono dissolte, ci sono ancora le scorie diffuse per il mondo. Mia nonna cucinava malissimo e non ho un buon ricordo di quella cucina, però è pur sempre la cucina della nonna, per cui va sempre ricordata con una certa tenerezza prustiana. Quella che vorrei sentire anche da Carmen, che mi chiama da Cuneo. Carmen, ci sei? Ciao. Ciao Tommaso, bella la tua trasmissione. Ma grazie, ma è bella perché siete voi che chiamate e mi dite le vostre storie e sentiamo quale storia mi racconti tu. Beh, è una storia particolare. Dunque, io abito a Cuneo, sono nata a Cuneo, abito a Cuneo, però mio padre era di Messina. Sì. E tutte le estati, pensa, io ti parlo di, ho 58 anni, di viaggi in 850 Fiat eterni per arrivare a Messina. Ma l'850, poi, scusa, massimo rispetto, però comporta pacchi naturalmente. Sì, certo. Bello carico, e non quello di oggi che sembra un catafalco chiuso, vista. Certo, no. E in quattro tappe perché non c'era ancora l'autostrada. Mi ricordo il passaggio di Genova, era allucinante. Ah, ecco. Comunque, quello che era bello era arrivare a casa dei miei nonni a Messina, io lo desideravo con tutta l'anima. Ah, quindi a te piaceva andare dai nonni? Sì, mio nonno era sopravvissuto per miracolo al terremoto del 1908, esatto, sì. Perché una parete era caduta per traverso, lui è rimasto incastrato sotto. La casa era stata costruita con criteri sismici, ricordo l'aspetto dei due cose, l'aspetto dei nonni e i profumi intensi della Sicilia, come qua non sì. Ce ne sono. La seconda cosa importante, secondo me, penso che abbia contribuito, che mio nonno, che mi comprava i coni gelati, queste cose qua, è stata la prima persona che mi ha portato al cinema. E che film hai visto, te lo ricordi? Sì, mi ricordo che mi portava sempre a vedere, per bambine, quelli che lui chiamava Crick e Croc, cioè Stanlio e Olio. Ah, sì. E poi più grande, Il giorno più lungo, eccetera. E ora io penso in parte per il mio nonno adorato, nonno Saro, che di viso ricordava vagamente Ayala. Chi? Il messinese Ayala. Ah, sì, quindi, il messinese Ayala, sì. Sì, i raffinati miei nonni. Penso che ora mi occupo di cinema in parte perché è la prima cosa che, cioè non che i miei genitori, per carità, ma i miei genitori lavoravano tutto il giorno, quindi perché mi occupo di cinema penso che sia perché la prima cosa che ho fatto con mio nonno è andare al cinema. Beh guarda, è stato un ricordo bellissimo, tu sei veramente proustiana. Ti piace come... Ho letto una volta all'anno, tra l'altro perché me li mandava mia zia da Messina una volta all'anno. Ah, quindi c'è ancora una zia dietro. C'era anche la zia Coccolona e mi mandava una volta mi dava una volta all'anno. Cosa? Un Proust, uno per anno. Ma che meraviglia. 7 anni a letto. Ma Proust ci ha messo una vita a scriverlo, quindi va a letto lentamente. Grazie Carmen. Niente, figurati, è stato un piacere. Ma figurati, io prima sono stato un po' cinico rispetto a mia nonna, ma d'altronde non sono stato l'unico cinico. C'è stato un altro grande personaggio del cinema nel passato che era molto molto cinico. Sentite questa clip. Robertino! Zio Michele! Attenzione, eh! C'è il chiosino! Sì, Enrica! Ma che piacere di rivederti! Vi presento un... Cortona, enchanté, signora! Molto lieto! Fortunatissimo! Senti un po', ma zio Michele si è un po' ritirato, ma sbaglio. Però, Roberto... Bella sala! ...scriverci anche un rigo in tanti anni. Hai ragione. È stato veramente una canaglia. È birba questa nipote! Ha sempre la stessa testa, eh? Sì, sempre la stessa. Già. Tutte le volte ti arrivavi qui da piccino, come prima cosa tu facevi il giro delle stanze, che te lo ricordi, Robertino? E come no, l'ha raccontato pure a me. Dai, vatti a fare il giretto delle stanze, bene, forza! La stanza dei lettini. Adesso la chiameranno la stanza della TV. Io dormivo qui con mio cugino Alfredo. Era più grande, eppure mi mandava sempre avanti ad accendere la luce. Qui dormiva zia Lidia. Vittorio Gassman nel Sorpasso, allora c'è il giovane trentennian che è così, lui veramente proustiano, malinconico, ricorda con tenerezza i parenti, e arriva Gassman, praticamente gli distrugge la famiglia, nel senso che li conquista subito e svela poi il loro vero aspetto umano. Questo succedeva negli anni 60, io prima ho detto che la pubblicità cerca sempre di farci vedere i nonni come non sono più oggi, e infatti non lo sono, e io vorrei anche dei ricordi sui vostri nonni di oggi, 800 24 00 24, su YouTube. Mi confondo a volte Facebook, questi nuovi siti mi mandano in confusione. Su YouTube ho trovato una registrazione di una signora, una nonna, che dice delle cose strane che commentiamo dopo. Ciao Anna, come stai? Stai bene? Hai visto tutti i tuoi parenti? Sei contenta o no? Io però ti voglio qui, speriamo che rientri, né? Venga da venire a casa nuova. Anche perché devi aiutare la nonna a fare la minestra di zucca che abbiamo mangiato oggi. Ah, ecco. Risotto di zucca. Eccola qui la nonna del 2011. Quanto? Non è più quella che ci aspettava. Quanto? Nel casolare in cui noi poi andavamo da piccoli. Io no, ma voi, dico voi, i ricordi sono i vostri. 800 24 00 24. E andavate nel casolare della nonna, invece no, adesso la nonna sta a casa non va in vacanza e aspetta che torni la badante dalle vacanze. Gli manda addirittura un messaggio tramite YouTube alla badante ucraina per dire torna presto. Ma c'è una storia molto particolare di bambini lasciati in vacanza dai parenti. Heidi, ovvero, se posso dirlo, il massimo della sfiga, perché poverina, lei nasce, resta orfana, la piazzano da una zia, che naturalmente dopo un po' non vuole più tenerla. Cosa fa la zia? La piazza dal nonno, il famoso nonno di Heidi, così tutto cattivo, sembrava cattivo, in realtà no, era semplicemente un orso anche lui. E la povera bambina comunque viene su tranquilla e felice, nonostante quello che dicono le mamme di oggi, che dicono no, non bisogna mandare i bambini dai nonni, perché i bambini dai nonni non devono andarci, perché sennò poi diventano troppo viziati. Beh, le mamme di oggi sono un po' simili un po' alla signorina Rottermeier. Bene, allora adesso abbiamo tutto il tempo per ascoltarci la nostra Hit Parade, che è di un anno molto particolare, il 1965, credo. Hit Parade! Numero 10, E voi ballate, Adriano Celentano. Numero 9, Ti senti sola stasera, Michele Maisano. Numero 8, La casa del sole, Marcello Sferial. Numero 7, Il silenzio, Nini Rosso. Numero 6, Quello sbagliato, Bobby Solo. Numero 5, Se non avessi più te, Gianni Morandi. Numero 4, Tu sei quello, Orietta Berti. Numero 3, Il mondo, Jimmy Fontana. Rita Pavone. Numero 1, Ciao ciao Downtown, Petula Clark. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic. Sei troppo giovane, sto parlando a Mauro, il mio regista, che lo vedevo che faceva il sync, cantava, ma cantava la versione italiana, per cui poi è rimasto sbalordito perché Petula Clark cantava in inglese. Abbiamo scelto la hit parade più antica che avevamo, quella del 65, perché oggi, parlando di nonni, mi sembrava doveroso dover tornare molto indietro nel tempo. Luca, ci sei? Sì, sono qua. Luca da Pordenone. Sì, ma io ho un ricordo meraviglioso di mia nonna. Materna perché... o paterna? Paterna. Anche materna, però quella paterna era secondo me il massimo, perché mio papà ci portava, a me e mio fratello, appena finita la scuola, a trovarli, e veniva a prenderci i primi di settembre. Ma dove? Tre mesi al mare. Al mare dove? Al mare nelle Marche, vicino ancora. Ah, quindi da Pordenone scendevi giù nelle Marche? Esatto. Sì, sì. Tre mesi sono tantissimi oggi sì, nessuno fa tre mesi di vacanza. Era un'esperienza, sì, andava in treno, ci caricava in treno a Venezia e si scendeva direttamente ad Ancona. Un'avventura, però una cosa meravigliosa. Per quanti anni l'hai fatto? Fino ai 16 anni praticamente. Ah, quindi poi, tantissimo. Insomma, anche le compagnie, gli interessi, un po' tutto, ma poi i nonni sono un po' invecchiati, insomma, andate così. Ma in questi tre mesi cosa facevi? Ma è vero che quando si andava dalla nonna poi bisognava fare certe cose, tipo andare a caccia di bisce, arrampicarsi sugli alberi, tutte quelle cose della letteratura? Abbiamo fatto i cotti di crude, anche perché poi l'avevamo fatto... Là avevamo trovato una compagnia di amici, per cui insomma, di tutto e di più. A parte andavamo al mare, quindi se c'era comunque quello lì come punto di incontro, c'era il mare, no? Però poi veramente come compagnia le facevamo tutte. Ma tu devo oggi... dire che mia nonna era anche brava, perché ci lasciava fare e ci controllava anche. Ah, beh, ecco. Ma tu oggi hai dei figli? Sì, ne ho due. E li manderesti in vacanza dai nonni tre mesi? Certo, ci mancherebbe. Io ti manderei, perché io sono stato benissimo, sono venuto su tutto sommato in ordine, Le mie bambine vedo che stanno bene, sono in ordine, hanno un buon rapporto con i nonni. Il problema è che i nonni di oggi sono comunque fagocitati, come lo siamo noi, da questa realtà, quindi anche loro hanno tanti interessi e hanno tante altre cose. Mentre prima i nonni, voi per educazione o per chissà che cosa, erano votati diciamo al nipote, quelli oggi, di oggi non per cattiveria, ma no, partono per Sharm el Sheikh naturalmente, perché è giusto, e così i nipoti se li tengono i genitori, vero? Ecco. Ma quello ci sta anche, giustamente, le loro ferie, però magari sai, o hanno amici, o hanno giri, o hanno incontri, cioè hanno meno tempo. Il problema è che non si rendono conto che perdono gli anni migliori, perché quando questi ragazzini arriveranno a... Saranno grandi se li saranno persi. Grazie Luca, allora. Grazie, anche tu hai avuto un bel ricordo prustiano. Sentiamo quello di Ario. Ario. Sì. Ma tuo nonno ti ha dato questo nome? Chi è che ti ha dato il nome Ario? No, mio padre, perché il nonno aveva tutto un problema con la Chiesa. Ario è un eretico condannato nel Consiglio di Nicea nel 1997. Mi faceva paura proprio questo, capisci? Ho detto, sarà un eretico anche lui. Tu chiami da Napoli. Colpa mia. Anche il vescovo, quando mi ha cresimato, mi ha dato un ceffone. Allora. Non è stata colpa mia il nome. Era troppo piccolo per potermi scegliere un nome diverso. Allora, tu andavi in vacanza dai nonni? Dove andavi? No, nonna stava con noi. Ah. Il suo letto era la piccola Svizzera, perché sotto il suo letto di ferro gigantesco per me allora... Sì. Praticamente nessuno ci raggiungeva e da lì praticamente seguivamo tutte le diatribe che aveva con papà, perché non voleva praticamente mettere, lei voleva mettere i lumini davanti alla fotografia del marito morto, del nonno. Sì. E papà invece diceva è pericoloso, ci bruciano le tende, allora metti una lampada. Allora mia nonna replicava, la lampada elettrica non è una cosa sacra. Il fuoco è la cosa sacra. Sì, ma siete una famiglia un po' difficile, scusa. Cioè, tu ti chiami Ario e quindi sei un eretico. Poi prende fuoco la casa. Ma non sono un eretico, è il nome che... Sì, eretico. Sì, per carità, è il nome. Ma tu hai qualche ricordo? Cioè, sai che Proust aveva questi ricordi legati agli odori, ai sapori. Hai qualche ricordo del genere riguardo tuo nonno? Magari il vestito che portava, il profumo che usava? Certo, la nonna. Io stavo in braccio alla nonna. La nonna. Ah, la nonna Virginia. La nonna Virginia mi metteva in braccio praticamente, e tra l'altro avevo un figlio, un fratello di mamma, per esempio un ricordo stranissimo, che era un nomade, non stava mai a Napoli, girava per il mondo, e un giorno a Pasqua gli regalò una gallina di cioccolato. Di cioccolato? La nonna praticamente ci dava tutto a noi nipoti, tranne quella gallina, fin quando non cominciò a camminare da sola, perché feci vermi, il figlio non veniva mai, non tornava. Questa cioccolata non mangiata, quella è stata una cosa brutta. Ah, ecco, vedi, quello è stato un ricordo di una cosa che non sei riuscito a fare, che peccato. Vabbè. Comunque anche questi ricordi delle cose non fatte, delle famose rose che non colsi, come diceva Gozzano, hanno il loro valore. Grazie a Dario. C'è Luca adesso. Pronto, Luca? Buongiorno. Luca da Modena. Sì. Buongiorno. Sì, io ho un ricordo, io ho 42 anni, mio nonno purtroppo è morto nel 76, quindi io avevo... Eri piccolissimo, anni, sì. Ero piccolino, però ricordo bellissimo di mio nonno, tra l'altro una persona buonissima, nonno Gino si chiamava. E mi ricordo che io, mia sorella e altri bimbi, i miei nonni abitavano in campagna e noi andavamo insomma d'estate da loro. No, e allora cosa facevi? Dimmi, è vero che andavi, ma andavi a caccia di bisce? Sì, ci andavamo. Oh, sì, allora è vero, si va veramente a caccia di bisce quando si va dai nonni. Sì, con i nonni sì. Io ricordo bellissimo del nonno la domenica, e loro avevano insomma delle mucche, quindi a lui la domenica andava a giocare a carte all'osteria al pomeriggio e alle 4 tornava, noi lo aspettavamo sopra la salita perché sapevamo che l'orario tornava, che lui giocava a carte, vinceva le caramelle, se non le vinceva le comprava e poi ce le portava insomma. Però non ho capito una cosa. Hai esordito dicendo lui aveva le mucche e poi giocava a carte e tornava alle 4. Aveva le mucche, quindi lui dalle 2 alle 4 poteva andare la domenica all'osteria perché le mucche... carte, perché dopo doveva chiaramente governare le mucche, quindi, ma dimmi la verità, cioè confessati, sono passati tanti anni, ogni tanto ti annoiavi un po' dal nonno? No, assolutamente no. Sicuro? È questo che cerco di trasmettere ai miei figli, è il fatto che comunque allora non c'erano tutti i divertimenti. Cioè, creavamo noi i nostri divertimenti e ci accontentavamo di quello che comunque c'era, cosa che adesso vedo che non esiste purtroppo, certi valori non ci sono più, anche in generazioni, insomma, dopo le mie, vedo che le cose sono cambiate tantissimo. Pensa, magari fra 20 anni quelli ragazzi di oggi penseranno la stessa cosa. Penseranno la stessa cosa, però io ricordi, insomma. Hai qualche ricordo anche legato alla zia? Sì, ho una zia che c'è tuttora, quindi allora molto severa per noi, perché era quella che comunque viveva con i nonni e quindi era per noi la zia cattiva tra virgolette. Ma povera donna, dai! No, cattiva tra virgolette, perché lei era quella che comunque ci comandava, ci faceva rigare dritto, perché nonna e la nonna, pur severi che erano, insomma, che non... erano troppo buoni per Era la famosa zia di cui dicevo prima, la zia Zitella, che oggi verrebbe detta zia single. Esatto, guarda, infatti, ti faccio un regalo. Sì. Ti faccio un regalo, visto che prima di tutto sei dell'Emilia Romagna e parlavamo di zia, guarda che cosa ho per te. Io ho una zia che sta por lì, che quando va a ballare con il piede fa così. Vorrei sentire tutto questo pezzo, perché è veramente molto variato, sembra Philip Glass al meglio delle sue possibilità. La zia di Forlì, avete una zia a Forlì, ma anche da un'altra parte, anche a Ragusa, non c'entra, l'importante è che abbiate una zia di cui parlarmi, perché dopo parliamo ancora di zie oltre che di nonni. 800 24 00 24 che ricordi avete delle vostre vacanze dai nonni? Ma qualcuno deve chiamare e dire: mi annoiavo mortalmente, non ne potevo più, ero disperato, perché d'altronde stare lì con la nonna e non essere a casa mia con i miei giocattoli era una tortura, volevo piangere. Ecco, mi raccomando, chiamatemi e fatemi sapere queste cose. Dopo parleremo di, voglio, ve lo dico subito, dopo sveleremo finalmente una cosa che stiamo aspettando tutti da tantissimo tempo. Ma nonna Papera è la nonna di chi? Perché magari leggete e dite: ma nonna Papera è parente di qualcuno? Nonna Papera, sì, ve lo diremo, finalmente sveleremo di chi è parente nonna Papera. Questo però dopo, mi raccomando, da una seconda parte. Prima però c'è la borsa. La bella estate. Nonnetta, nonnetta, rispondi, oh nonnettina, nonnettina mia, tu sei tanto stanca, non puoi camminar, ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina mia. E in fatto di cinismo Alberto Sordi non è secondo a nessuno, è il mio maestro da quel punto di vista. Più avanti nella canzone non dice: tu sei tanto stanca, dice: nonnettina, tu sei paralitica e non puoi camminare. Lo trovo favoloso. Tra l'altro ha chiamato mia nonna insultandomi pesantemente per quello che ho detto prima. Nonna, sto scherzando, sono qui al telefono, alla radio e devo fare queste cose per forza. Dunque, vi avevo detto, anticipato, che avremmo svelato quali sono i veri rapporti di parentela tra nonna Papera, qui qua e Paperino. Non lo faccio io, ma lo faccio con Andrea Tosti. Pronto, Andrea? Sì, pronto, eccomi. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, Andrea Tosti è autore del libro Topolino, il fumetto Disney italiano, edito da Tunue. E forse tu potrai darci veramente una illuminazione. Nonna Papera è veramente la nonna di Paperino o no? Nonna Papera è una, diciamo, una bisnonna lontana di Paperino, nel senso che i rapporti familiari all'interno della famiglia dei Paperi sono alquanto vaghi e imprecisi. Non c'è mai una parentela sicura, un'origine sicura dei vari rami di questo albero che è cresciuto negli ultimi 80 anni, diciamo. Quindi lei non è sorella di Paperone, in fondo? Non è sorella di Paperone. Paperone ha due sorelle che vengono da... lui è scozzese, viene dalla Scozia originariamente, però nonna Papera è una sua parente lontana, diciamo, più anziana di lui, è una specie di capo famiglia attualmente. Avevo persino letto che Ciccio è addirittura parente di nonna Papera. So che è un problema che può lasciare anche insonni, ma è vero? Beh, insonni forse no, comunque sì, anche lui è una specie di pronipote. Un pronipote alla lontana, cugino alla seconda, diciamo, sia di Gastone che di Paperino. È tutta una grande famiglia i cui rami si intrecciano vagamente. Andrea, ma non trovi che, questa è la mia opinione, che Dan Rosa stia facendo un po' di confusione? Perché lui sta cercando di sistematizzare la famiglia dei Paperi, però alla fine crea delle cose che non esistono. Creano delle cose che non esistono, che il suo è un lavoro filologico fatto rispetto al lavoro di Barks, che se non è il creatore proprio di tutto l'universo dei Paperi, è il creatore della gran parte dei personaggi che vediamo, quindi di Paperone, di qui qua. forse dico qua neanche, insomma, quello che comunque li ha portati a maturità. Don Rosa ha cercato con un lavoro filologico a volte un po' freddo di intrecciare delle parentele che in realtà poi nella gestione italiana di questi personaggi sono completamente diverse. Ecco, a proposito, quanto cambia una versione, la gestione italiana di Nonna Papera, mettiamo, da quella americana? È molto diversa la Nonna Papera in Italia? Beh, il personaggio naturalmente rimane lo stesso, poi naturalmente l'origine culturale del personaggio cambia, perché nell'immaginario americano, soprattutto di quegli anni, Nonna Papera è la classica donna pioniera, una donna capofamiglia di queste famiglie di coloni che colonizzavano, quindi la donna di campagna, rude, abituata al lavoro di fattoria, di famiglia. Qui è diventata, nella versione italiana, è diventata una specie di vecchia consigliera saggia e un po', a volte un po' folle, che vive ai margini della società, diciamo, cittadina urbanizzata, dove vivono gli altri paperi. Ecco. Naturalmente ogni personaggio ha un'origine diversa, che poi in Italia è stata a volte, se non stravolta, molto cambiata. Ma tu ci andresti in vacanza da Nonna Papera se tu avessi una nonna così? Anche solo per il menù. In effetti fa sempre queste torte. Senti Andrea, grazie tanto, non è che ci hai chiarito le idee, ma proprio perché la materia è molto complessa, è complessa. E purtroppo è così. Grazie comunque. Figurati. Ciao. Ciao. Nonna Papera a me personalmente ricorda sempre la sorellella. Scusi, che ha visto una vecchia? Una vecchia? Sì, c'è, cioè una signora un po' anziana. Ah sì, con un ufficiale. Sì, infatti quello è mio zio. E un'altra signora? Sì, infatti quella è mia zia, c'è la moglie di mia zia, la sorella di mia madre. Sì, la sera qui all'ombra. E dove sta all'ombra? Io non so, 2 ore fa c'era il sole, stava qui, adesso si sarà spostata. Ma chi si è spostato, l'ombra o mia nonna? Tutti e due, si è spostati tutti e due. Insieme? A varemengo. Carlo Verdone farebbe perdere la pazienza a un santo, figuriamoci a un casellante dell'autostrada. E qui alle prese appunto con la nonna, che è la sorellella, non è proprio in vacanza, però stanno facendo un viaggio ed è come se fossero in vacanza. Massimo da Imperia, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, allora che ricordi hai tu legati ai nonni in vacanza? Ma direi bellissimi, talmente belli che mi commuove solo pensarci. Sì, non piangere adesso però. No, ecco. Assolutamente. C'era una cosa in particolare, sì. Eravamo immediatamente dopo la guerra, gli anni a ridosso della guerra, sì. Eravamo alla fine degli anni 40, i primi degli anni 50, e mio nonno lavorava come operaio in una grande raffineria a Livorno, sì. E la mattina partiva con quello che si chiamava allora il baracchino, no? Dove la nonna e sua figlia, mia madre, gli preparava magari un pezzo di fritato, un po' di minestrone, qualcosa da mangiare. E lui arrivava sempre la sera e ne avanzava sempre per noi nipoti. E noi gli andavamo incontro, lui ci metteva sulle spalle e ci dava da mangiare nel suo baracchino. Era la cosa più bella che ci poteva regalare. Guarda. Grazie, grazie. No, figurati, grazie. È comunque un bel ricordo, vedo che ti sei commosso moltissimo. Io voglio però, mi fa piacere, però voglio anche qualcuno che dica non ne potevo più stare dai nonni. Donella, per esempio, ci sei? Buonasera. Donella. Donella da Pisa. Da Pisa. Bellissima questa trasmissione. Niente, dimmi, mi è venuto in mente... Tua nonna, tu eri felice dei nonni o no? Dunque, io i nonni purtroppo non li ho molto conosciuti, perché noi venivamo dalle Marche, i miei genitori, io avevo 18 mesi, sono trasferiti in Toscana. L'unica parente che c'era, che per me mi ha fatto da nonna, era una sorella di mia nonna che abitava in Toscana, in una grande casa colonica della campagna qui di Toscana, dove in casa c'era pieno di altri zii, io chiamavo tutti zii, però l'unica zia era lei, perché vivevano tutti i cognati, insomma, fratelli, nipoti, tutto insieme. Era bellissimo per quel che riguardava la vita che facevo, la trebbia, sì. mi responsabilizzavano su tante cose, facevo delle cose che per un bambino sono impossibili, tipo c'era un fil di ferro che noi facevo attorcigliare per le presse, insomma delle cose bellissime. Però la cosa triste era veramente il mangiare, perché nelle campagne usava così, perlomeno a quei tempi, se la natura, se dall'orto veniva fuori le melanzane, i pomodori, i peperoni, tutti i giorni erano melanzane, pomodori e peperoni. Bisogna abituarsi, no? È una sana era vita quello, di campagna. Cioè, non era, cioè loro non andavano a comprare cose, capito? La roba non andava sprecata, giustamente. Ma giustamente. Mentre casa mia che non compravano pesce, mangiavamo, insomma, l'alimentazione era piuttosto varia, lì magari le mangiavi in diverse salse, cioè una volta fritte, no, però ma era sempre la stessa cosa. Era sempre la stessa grazie cosa. Donella, però grazie. A distanza di anni è bellissimo anche ricordarlo. Lo so, però grazie perché finalmente cominciamo a così a rompere, a fare qualche crepa in queste case dei nonni, a dire beh sì, era bello, però non è che si mangiava sempre così bene, era sempre le stesse cose. Forse Davide può dirmi ancora qualcosa di più. Davide. Ciao. Sì, ciao. Sì, qualcosa di... allora, premetto, io sono un figlio del baby boom, anni 60, sì. No? E i miei genitori erano degli ex rurali inurbati nella città di Ravenna. Ah. Succedeva che d'estate comunque c'era la vacanza obbligata dei nonni che erano rimasti in campagna e per me che ero già un fighetto di città, sì. Anche a 5, 6, 7 anni, però stare in campagna era una noia incredibile perché... Ti sento malissimo, Davide, ti sento malissimo, proviamo a richiamarti, comunque finalmente qualcuno che in campagna si annoiava. Vediamo un po' se Enzo magari mi dà ancora più soddisfazioni. Enzo. Sì, buonasera. Enzo da Viterbo, tu quando andavi dai nonni ti annoiavi o no? Ma io diciamo che non mi annoiavo perché essendo dai nonni materni erano 9 fratelli, erano scalati di età talmente vicino, quindi eravamo un mare di cugini, quindi non potevo annoiarmi. Loro abitavano in campagna e io mi ricordo che la nonna, sì? Proprio, diciamo, ricordando nonna Pavela, lei era proprio specializzata in supplì. Ah, tu andavi lì per i supplì della nonna? No, io andavo dalla nonna, ma lei faceva una cesta immensa di supplì e noi eravamo 8-10 nipoti, diciamo tra i 7 e i 12 anni ci trovavamo comunque. E per noi ecco era soltanto una festa, poi ho dei ricordi, ecco, diciamo, io ho conosciuto fortunatamente tutti e quattro i nonni. Come diceva infatti la signora, oggi di solito conosciamo tutti e quattro i nonni, però vedo che anche tu in passato li avevi conosciuti. Sento un po' male anche te, però quello che voglio dire è che sono belli questi ricordi in cui vi commuovete, addirittura prima mi sono sentito anche un po' Raffaella Carrà con questo signore un po' commosso, però io sono più cattivo. Insomma, più cinico. E oltre ai nonni c'erano anche le zie e spesso le zie ci facevano anche un po' così destare certe sensazioni, come succedeva in tanti film degli anni 70. Stai attenta. Ah, ci sono serpenti? Qui no. Stanno tutti in paese. Ma zia, non hai il costume, potrebbero vederti. E allora? Incredibile. È finito così. Io ero qui che già gustavo. Questo era un trailer del film Con la zia non è peccato, un film dell'80 con Marina Lothar. I più grandi, naturalmente, cinefili conosceranno il genere e conosceranno l'attrice, ma finalmente vediamo il vero senso delle zie. Vedo che Sandro da Milano mi vorrei raccontare qualcosa proprio della zia. Sandro. Ciao Tommaso. Ciao. Ma dimmi, quando insomma, a te tua zia piaceva o no? Ma vedi, mia zia, fra me che avevo a quell'epoca 12 anni, mia zia che ne aveva parecchi di più, era una delle sorelle di mia mamma, la chiamavamo per intero la zia Maria Maestra, la zia Maria Maestra, tutto attaccato. Perché... Maria Maestra, come mai? Perché faceva la maestra? Esattamente, faceva la maestra d'asilo e aveva sposato, aveva praticamente... tra virgolette ereditato un'azienda agricola in Veneto e di questa azienda agricola potrei ricordarti il profumo della stalla, il profumo... Oh, tu sì che sei prustiano, così bisogna essere ricordare, ma ti annoiavi però dalla zia? No. Mai? Assolutamente no, perché? Per il semplice fatto che la zia aveva in soffitta una biblioteca, hai presenti i librettini, quelli grigi della Burr? E come no, certo. La biblioteca sì, universale sì. Rizzoli. Ne aveva una serie infinita, ma in particolare quelle che mi interessavano erano la come possiamo dire la trasposizione scritta delle commedie goldoniane. Ah, e tu le leggevi, andavi in soffitta a leggere le commedie goldoniane con la zia sotto? Ma non solo. Cos'altro c'è? Successivamente, anni dopo, sì? Io... utilizzando un vecchio registratore geloso e utilizzando... Te le sei lette? No, me le sono tradotte dal vivo, nel senso che ho cercato di metterle come possiamo dire, di farne una versione orale. È stato, vabbè, anche questo è stato un bellissimo ricordo. Grazie, grazie a Sandro, perché è tornato intanto Davide. Davide da Ravenna, sì, ci sei? Mi senti? Sì, ora sì, dai, per favore, consolami, dimmi che no, ti consolo subito, perché come ti dicevo, io, i miei genitori si erano trasferiti dalle campagne in città, sì? E i miei nonni abitavano in campagna ancora, i genitori di mio papà. Io ero già un ragazzino fighetto di città, perché e sono i fighetti di piazza, no? Sì. E dimmelo, mi annoiavo tantissimo. Io dai nonni stavo mazzo. Oh, finalmente! La campagna è stata, perché io ero abituato allo smog della città. Oh, e ancora si sente male. Comunque finalmente ho sentito quello che volevo sentirmi dire. In campagna dai nonni, mi annoiavo mortalmente. È finita anche per oggi. Grazie a Mauro, grazie a Viola. Stavo dicendo Vilma, perché mi ricordo una zia Vilma. Torneremo domani. Il tema della puntata di domani è la gazza ladra. Parleremo di ladri, topi d'appartamento, smarrimenti e furti. Non mancate. E la pagina Facebook è sempre quella, La Bella Estate. Ciao, a domani.